Viaggiatori, il numero che avete appena scoperto, 108, rappresenta anche i chilometri che avete percorso in questi 6 giorni. Ma non avete camminato senza tregua. Ogni giorno avete dormito 8 ore, impiegato 1 ora per prepararvi, dedicato 2 ore ai pasti e vi siete fermati 8 volte per 30 minuti. Escludendo tutte queste pause, quale velocità media in chilometri orari vi ha condotto fino a qui?